Ok, ce l'hai la nota? Sì, sì. Allora partiamo. 2, 3, 4. On the streets of the Bronx, where I'm on a... Lo sai perché Joe DiMaggio era così grande? Perché era italiano. Beh, anche per questo. Allora perché? Perché aveva più talento di tutti gli altri. Talento? Esatto. Io ce l'ho il talento. Certo che hai talento. Hai tutto il talento del mondo. E potrei diventare un giocatore? Puoi diventare tutto quello che vuoi. Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Invece se ti comporti bene, dai retta a me, succedono grandi cose. Hai capito? Hai ragione. Conta solo quello che è giusto per te. Non sprecare il tuo talento. La gente se ne frega. Sorridevano tutti. Anch'io sorridevo. Mi sentivo morire dentro. Qualcuno aveva tirato la catena. Io stavo andando giù per la tazza del cesso. La cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Talento sprecato. Talento sprecato. Talento sprecato. Fatti sotto quando vuoi, sono pronto all'impatto. Sotto con i miei diamo fuoco all'impianto. Rap non è musica, hai ragione, per me è il più potente mezzo di comunicazione. Dritto al cuore tipo lama tagliente. Sputo dentro al micro tipo lama ma niente. Il mio sogno da bambino, fare il pompiere. Ora che sono cresciuto passo molto tempo a bere. C'è chi mi capisce con un solo sguardo, chi crede di capirmi ma non sa di che parlo. Testo la mia testa sopra testi e non mi blocchi. Chiaro sì, come il colore dei miei occhi. Colpo di pistola su tronisti, ballette, cantanti a rivisti, lecca culo, marchette. Zero assoluto, di Risio Meneguzio. Un piano terroristico per sopprimerli tutti. 2007, Vito Santo Vizzola, la faccia dai. Passione. Il mio suono entra nelle orecchie tipo cotton fioc. Il tuo cuore va in tachicardia come Giulia Ross. Con il rap sei fuori strada tipo moto da cross. I fake li fiuto a naso come Coca Kate Moss. Nido Sound entra dentro al vostro stereo. Alle 4 di notte alzi il volume ancora sveglio. Ecco il prato su cui coltivo l'erba voglio. Spreco il fiato su ciò che scrivo sopra un foglio. Sopra un treno rapido che sta deragliando. Generazione senza reazioni allo sbando. La mia città piena di spunti giovanili. La mia città piena di anziani e distintivi che arrestano se gridi con il primato italiano di alcolizzati e suicidi. Libertà rinchiusa dentro a gabbie e sbarre. La mia libertà chiusa dentro a 32 barre. E barre, rame della musica. È una vita che sta stretta. Evasione, c'è il punto sound. Tacco, è underground.